Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 8 e 17 minuti, caro Oscar, buongiorno. In questo lunedì inizio di settimana, diretta fino alle 9.30. È l'ultima settimana, vogliamo dire. No, non è mai l'ultima settimana, non è la fine del mondo. No, è l'ultima settimana nostra. Ecco. Adesso non è che... Perché noi andiamo alla RAI, abbiamo letto gli stipendi e andiamo alla RAI. Sì, infatti, io vorrei anche, prometto uno sconto, se il direttore generale Campo Dall'Orto ascolta, io mi accontento anche invece di 200, di 190. Ma sì, faccio 180, gara al ribasso, ragazzi. Non te la do per uno, non te la do per due. Avanti. Dai, noi la mettiamo a ridere, però, cari ascoltatori, ci sarebbe di che riflettere. Cari ascoltatori, che state per pagare il canone. Prima, però, Ve lo stanno prendendo. No, state per. No, state è direttamente in bolletta. E soprattutto, occhio a chi non dovrebbe pagarlo e lo paga comunque. Noi siamo qua. Anche da settembre facciamo il conto di tutti quelli che non dovrebbero pagarlo, ma invece ve lo stanno prendendo. Però, prima di parlare degli stipendi della Rai, visto che siamo a Radio 24, possiamo farlo. Sì. Perché se fossimo alla Rai, per esempio, non credo, Oscar, che potremmo parlare di questo. Pensi, vero? Anch'io azzardo questa opinione sulla mancanza elementare di diritti di libertà nel servizio. Vabbè, dai, pubblico! Non è simpatico parlare di stipendi di colleghi in azienda. Eh no, certo. Soprattutto quando sono senza incarico. Infatti. Bello però in Rai senza incarico ben pagati. Facciamo tutti i nomi. Però il numero, se volete chiamare sulla Rai, eccetera, 800 24 0024. Ma Oscar, i santi ci sono anche oggi o non ci sono? I santi ci sono e sono importanti, perché oggi è San Giacomo Maggiore, quindi il fratello di San Giovanni, uno dei santi fondamentali della Chiesa, e uno dei due che venivano chiamati Boaneges, cioè i figli del tuono, cioè i due apostoli più energici, e infatti fu decapitato come ovvio. Tra gli altri santi del giorno, Cristoforo, che a me è sempre stato simpatico, perché San Cristoforo c'è tutta questa leggenda di aver sognato di portare sulle spalle il Cristo, non l'ha davvero portato, lui viveva 2 secoli e mezzo dopo, e proprio per questo è il patrono dei portalettere, dei facchini, di tutti quelli che insomma fanno fatica fisica. A me è sempre stato simpatico da questo punto di vista. San Valentina, Santa Olimpiade Vedova, e fermiamoci qua. Che cosa è successo oggi nella storia? Ricordiamoci che oggi giorno con Enrico IV disse: Parigi val bene una messa, che è il simbolo dei politici pur di vincere, cambiare opinione. E che, pensa un po', a proposito di razzismo, violenze, pensa alla storia quanto si è modificata, perché oggi, nel 1950, i ciclisti italiani abbandonavano in massa il Tour de France, non se lo ricorda nessuno, Bartali e così via, perché erano stati aggrediti e picchiati il giorno prima dai francesi. E all'epoca c'erano questi problemi di incomprensione tra nazioni. Oggi sono un po' diverse, oggi. Basta vedere il fine settimana in Germania, per così dire. Sì, ne parliamo e ne parleremo, se volete chiamarci anche su questo, quello che è successo. Anche ieri c'è stato un attentato, pare, non si sa, fallito vicino a Norimberga. Ad Ansbach, è esploso, però è morto questo siriano, altro che era l'attentatore. E ci sono alcune decine di feriti. Sì, pare che volesse fare una strage. Però la sindrome oramai, come si vede in Germania, è quotidiana, grave problema per la Merkel, perché come ovvio la sua politica delle porte aperte sugli immigrati prende acqua a bordo, e invece quello che avviene dà armi affilate ai suoi critici in Germania. Se volete invece la RAI, perché c'è la bufera, oggi in realtà verranno resi noti, ma verranno resi noti gli stipendi sopra i 200.000 euro, però in realtà la rete in qualche modo ha superato, anticipato tutto. Allora qualche cifra, dai, la presidente della RAI Monica Maggioni 370.000. Carlo Verdelli, direttore dell'informazione, 320, poi i direttori di Rai 2 dalla Tana 300.000, così Daria Bignardi, che dirige Rai 3, 300.000, Campo Dall'Orto 650.000 come amministratore delegato. Però, ecco Oscar, la cosa che più ti ha colpito, dici, sono quelli che prendono, non so, Carmen la sorella, 200.000 euro, dice non ho incarichi in Rai, non ho incarichi. Perché non me li danno, evidentemente. Non sì, è sì, che... sono quelli a disposizione. Siccome Rai è uno spoil system, cambiano i direttori, cambiano l'influenza dei partiti. Poi arriva la nuova Rai, per cui è agli ordini del governo. Del governo, il governo che aveva promesso alla Leopolda di privatizzare due reti, di fare una fondazione come filtro tra politica proprietaria e azienda, ha fatto il contrario, si è annesso al comando proprio la Rai. E quindi, sai, quando cambia colore politico, quelli della Rai di alti gradi non è che li mandano fuori, continuano ad essere pagati per non far nulla. Per non fare nulla. Anche Francesco Pionati, te lo ricordi Francesco Pionati, sì, che ha fatto anche politica, poi un'esperienza politica, e dice effettivamente guadagno 203.000 euro l'anno e non ha incarichi. Non ha incarichi, e in una dichiarazione, fa un'intervista in cui dice ho aperto un contenzioso privato con l'azienda. Chissà sì, cos'è questo contenzioso privato. Sì, un contenzioso, ne sto discutendo con l'azienda, un contenzioso privato. Però non lo so, io non so se scandalizza tanto le cifre, leggere le cifre, non so, Antonio Marano presente Rai pubblicità 390.000. A me colpiscono quattro cose. Tantissimi anni fa, quando nella prima vita, tra i miei tanti errori, ero alla testa della comunicazione di un partito di maggioranza, cioè del Partito Repubblicano, capitò anche a noi di poter individuare dei direttori, no? Nelle spartizioni Rai, perché la Rai è questo fondamentalmente. Allora, noi facendo sbiancare un po' tutti, individuammo Zanetti, direttore dell'Espresso, un grandissimo giornalista italiano, che stava sulle scatole ai democristiani e soprattutto ai socialisti, a Craxi, e la Rai, pur di non prenderlo, si inventò che non poteva assumerlo perché era un giornalista oramai pensionato e i direttori li faceva con contratti solo a tempo indeterminato. Io mi impuntai e dissi no, voi lo prendete a maggior ragione con un contratto invece a tempo determinato, perché i direttori e i dirigenti non devono essere pagati a vita, devono essere pagati per contratti e risultati. Allora questo ti parlo, questa è una roba che ha decenni fa e invece in Rai continua a essere così. Questo è il primo punto, quindi incarichi a tempo e non a tempo indeterminato. Non possono esistere quelli che non hanno niente da fare e continuano a essere pagati. Due, perché per anni tacere su questi compensi? A furia di tacere si è dato l'idea che sono dei privilegi. Infatti sono dei privilegi, guarda la reazione oggi. Terzo, ci rendiamo conto che il totale degli stipendi in Rai si mangia metà del canone da solo, oltre un miliardo, e secondo te è un buon rapporto tra ricavi e costi? No, non lo è, ed è evidente, basta vedere quanto è sovrastaffata la Rai rispetto ai concorrenti privati. Quarto punto, sarei per privatizzare, ma so che non avverrà mai. Beh, questo è un tema più ampio, insomma, che va al di là delle cifre. Io sulla questione della trasparenza dico bene la trasparenza. C'è da dire che, attenzione, non ci saranno, per esempio, uno vuole sapere quanto guadagna Bruno Vespa o Fabio Fazio, questi non verranno pubblicati perché non sono dei dipendenti a Rai, sono degli esterni pur lavorando in Rai. E quindi essendo esterni, e poi sono artisti appunto, o meglio anche giornalisti, ma chiaramente, ma essendo esterni non verranno pubblicati in questo elenco. Qui ci sono i dipendenti che superano i 200.000 euro o le consulenze che superano gli 80.000 euro che verranno pubblicate. Sulla trasparenza dico assolutamente ci voleva, cioè meno male, ma sempre, un'azienda pubblica è stato sbagliato per anni non pubblicare. E probabilmente, certo, secondo me, non so come la pensi tu, se fossero stati sempre resi pubblici, alcuni di questi eccessi non ci sarebbero, perché è ovvio, perché il direttore generale di turno, di fronte all'idea di tenere gente senza incarico con centinaia di migliaia di euro, o li farebbe lavorare o troverebbe la soluzione. C'è anche da dire che in Italia però si scatena, Oscar, questo lo sai bene, la classica invidia sociale da stipendio, e questa è insopportabile perché, voglio dire, il problema di pagare 200.000 euro a Carmen la sorella, viene citata, per non fare niente, non è il problema di Carmen la sorella, è il problema di un sistema che permette di dare a una persona 200.000 euro senza incarico, cioè... Voglio dire, se mi arrivasse uno a dire ti do 200.000 euro per non fare niente, che fai? Dici. No, il problema è che un'azienda che si comporta così è una non azienda, un'azienda però, appunto, non la persona. Il problema non è tanto lei che ha lavorato per anni, che vorrebbe anche lavorare e che dice oh, ti diamo comunque 200.000 euro, che fai? Li prendi o non li prendi? Che devo fare? Li prendo. o chiamatemi fessa, no? No, ma questo non c'è dubbio. Detto questo, ripeto, come evidente, no? Le regole ad hoc, il silenzio generale per coprire i privilegi rende questa azienda pubblica non debole, priva i presupposti, sì, per chiedere il canone in bolletta. Questa è la mia opinione. Priva. Priva. Poi ovviamente c'è anche da dire, come ci scrive qualche ascoltatore, non so, Fazio guadagnerà tanto, ma il suo programma è uno dei pochi che fa anche grande ritorno pubblicitario, e quindi anche questo è un discorso da fare, cioè bisognerebbe capire. Ti ricordi chi lo voleva fare? Brunetta aveva detto, sì, ci vorrei mettere alla fine di ogni programma quanto è il guadagno, il costo del programma, quanto costa, e il quanto guadagno, ricava. Quanto guadagna. Vabbè, che non è neanche sbagliato in una logica. No, non è sbagliato per niente, però ripeto, conto solo. Magari non si può fare programma per conduttori, programma. Anzi, gli organizzatori conduttori con appalti esterni di trasmissioni. Altro conto è parlare dei dirigenti, sia di quelli editoriali, sia di quelli di prodotto o commerciali dell'azienda. E qui, insomma, c'è gente, ex direttori e vice direttori generali, che rimangono lì con stipendi da centinaia di migliaia di euro. Maran e così via, adesso non vorrei Miocci, dire Miocci 240.000 euro, ecco, capito. Allora, generale, questo che senso ha? Non ha senso, non è accettabile per un'azienda. E tu dici pubblica, incarichi a tempo, via. Ma certo, gli incarichi dirigenziali privati, ma scusa, secondo te in questa azienda continuano a pagare gli amministratori delegati o i direttori generali CFO di 5 gestioni fa? No, ma mica solo in questa, è la media, no? E funziona così. Invece quella è un'azienda privata quando vuole lei, pubblica quando vuole lei, per avere i benefici di entrambi e i doveri di nessuna. Sentiamo Monica Maggioni, presidente, 330.000 euro l'anno. Gli stipendi della figura apicale RAI sono più bassi del mercato che c'è là fuori, e allora mi si dice, ah, ma siete servizio pubblico. Ho capito, che cosa significa? Che il servizio pubblico deve decidere di stare necessariamente con dei direttori che accettano o di essere, come dire, public servant e quindi di dimezzarsi lo stipendio, o di essere di serie B. Questa è una riflessione che dobbiamo fare a un certo punto. È una riflessione da fare, no, serie B. Perdonami, la riflessione, sì, questo non posso accettarlo da presentare. La riflessione va fatta, viene fatta adesso, solo che li rendete pubblici. Certo che andava fatta decenni fa questa riflessione, invece non avete consentito di farla. Però lei dice, nel mercato si guadagnerebbe di più, e quindi invece uno stando in Rai facendo il public servant, perché è servizio pubblico, se dovrebbe... Vuoi, ti do la mia risposta in termini economici e aziendali. Siccome quell'azienda non sta sul mercato, quell'azienda sta in piedi grazie al fatto che più di metà delle sue revenue sono per legge dovute dal canone, e nell'altra metà è comunque avvantaggiata rispetto alle condizioni consentite agli altri. Quindi, siccome quell'azienda non sta sul mercato, infatti si è data procedure non di mercato, e siccome questi sono fatti, la Presidente non potrebbe smentirmi. Comunque 800 24 00 24, se volete intervenire, parliamo tra poco. Poi avremo ospite anche Maroni, del Presidente della Regione Lombardia, tra poco. Però ci chiama Giuseppe da Ascoli Piceno. Buongiorno Giuseppe. Ah, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Senta, io volevo dire una cosa. Si parla tanto di questa televisione pubblica, ma perché le altre televisioni non fanno televisione pubblica? Io, per esempio, a casa mia vediamo di più le televisioni di Berlusconi e la 7 che la RAI. Però volevo dire che, privatizzandola questa benedetta RAI, noi risolviamo tre grandi problemi. Il primo problema è che eliminiamo il canone, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E la seconda è che eliminiamo questa corsa dei partiti alla RAI per poter fare meglio quello che loro vogliono. E la terza è eliminare questa diciamo, come la possiamo chiamare, questa cosa che, di tutti questi soldi che in questo momento di crisi vengono dati a questi signori, che poi mi sembra che molti facciano poco o niente. Io non lo so. Beh, questo ultimo punto, Giuseppe, non lo so, non è che nelle altre reti non vengano dati stipendi magari anche più alti. Sì, ma vede, se diciamo la società diventa una società privata, dove diciamo i soci alla fine dell'anno hanno un bilancio e fanno quello che vogliono, per me a Carmen la sorella, al direttore, gli possono dare anche più di quello che prendono. Però è privato, ma è la società privata. La paghiamo noi. Quando la RAI poi va in deficit, deve intervenire sempre Pantalone, quindi il cerchio è sempre quello. Però Giuseppe, la ringraziamo. Qui Oscar c'è da fare la riflessione, ma il servizio pubblico, che sia o no servizio pubblico quello che fa la RAI, magari non è qui l'ambito in cui discuterne, ma... che serva o no un servizio pubblico, una TV da servizio pubblico, questo è un dibattito che forse nel paese va fatto. Se serve, poi che lo faccia veramente servizio pubblico. Se non serve, decidiamo che va cancellato totalmente. Che il governo ci aveva promesso. Aveva promesso che prima di intervenire avrebbe fatto un grande confronto su che cosa vuol dire oggi servizio il servizio pubblico per rifondarlo. Non c'è stato. Non c'è per stato. Essere chiari. Beh, a tuo parere, un servizio, una TV di servizio pubblico servirebbe in un paese? La mia opinione è che si può fare attraverso gara tra tutti i soggetti del mercato. La gara per uno o più servizi per standard vigilati e che siano definiti dal pubblico, questo certo che è possibile, anzi io credo che sia necessario ancora. Cosa diversa dal dire che c'è una concessione a vita alla stessa azienda che è pubblica, questo non ci credo affatto. È chiaro, no, è chiaro, questo è il punto. Io penso che un servizio pubblico ci sia, che il servizio pubblico sia da consentire a chi partecipa a una gara, magari dicendo lo finanzio anche in parte con i miei proventi delle altre reti commerciali, ma comunque deve essere una gestione contabile separata. Ci sono tanti diversi modelli di servizio pubblico in Europa. Il modello tedesco, per esempio, che esiste, è forte, ma è fortissimamente decentrato, quindi basato sui Länder e sulle televisioni regionali, è un'altra cosa. Quello della BBC è, per così dire, impermeabilizzato dalla politica. Ecco, ci sono diversi modelli, molti paesi hanno abolito il canone, ricordiamolo, e in Italia noi non abbiamo imbroccato nessuno di questi, abbiamo questo grande carrozzone di Stato che pretende di avere sempre ragione. Io non sono molto d'accordo, ma vedo che però destra, sinistra, tutti promettevano di riformarlo e invece... niente. Ci chiama Paolo da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Allora, io... chiedo almeno a voi che avete insomma competenze solide, economiche, sociali, di non parlare di invidia sociale. L'invidia sociale generalmente dal bar agli alti livelli c'è, ma non è invidia sociale, è rabbia nel vedere che a fronte di soldi magari pubblici spesi non c'è contropartita. Se lei va a vedere quello che prendono manager validi dallo stesso Marchione contestatissimo, nessuno li contesta quello che prende, ok? Si contesta il soldo, diciamo, rubato in senso lato quando non hai contropartita. 200.000 euro dati per non fare niente a chiunque sono furti. Fine. Stop. Quella non è invidia sociale. Quella è rabbia motivata. Dice, è rabbia motivata. Va bene, Paolo, la ringraziamo per questo suo intervento. Andiamo a Latina da Maurizio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una breve riflessione. Io ho aperto da poco un ristorante e mi sono visto immediatamente recapitare l'abbonamento Rai. Ok, benissimo. Ma io ho anche sottoscritto un contratto con Sky. Io pago Sky per avere i suoi servizi. Mi dà una tessera, quindi do il corrispettivo per pago il corrispettivo per quanto richiesto. Io la Rai non la voglio, non intendo vederla, la devo pagare. Ma non funziona generalmente che se io voglio un bene o un servizio, io pago... Lo so, il Maurizio, corrispettivo certo. Per averlo. L'abbiamo parlato. Non sono, cioè, non sono libero di scegliere. No. Perché la Rai no. Non mette anche la. Perché anche la Rai non mette una tessera, no? Come fa Sky? Perché sennò sarebbe libero di scegliere. Lei non è libero. Ma poi Maurizio, ne abbiamo parlato tante volte. Finché non cambia la legge, il canone è considerato una tassa sul possesso della TV. Che lei guardi la Rai o esatto. Che non guardi la Rai. Quindi, lei ha centrato la questione. Per come è la legge. Lei non è libero di scegliere. Punto. Lei è subito. È una tassa, quindi. Però Maurizio, insomma, una questione. Cioè io compro la macchina è mia, se compro il televisore lo pago io, non me lo paga la Rai, allora io non sono più libero del mio apparecchio televisivo, io pago una prebenda annuale. Lei è libero ma dovunque in catena, come diceva Rousseau. Ma lei può avere perfettamente ragione al 110%, però stante la legge così, cioè se fanno una tassa sul possesso dei bicchieri, lei dovrà pagare la tassa sui bicchieri se la fanno. Poi potrà anche rompere, ma intanto la paga. Dice, ma io li ho rotti, ma c'è la tassa sul possesso dei bicchieri. Esatto. Siccome è nata come tassa sul possesso della TV... È nata, è diventata per aggirare il nostro referendum, caro. Ci hanno preso per i fondelli anche su quello, però è così. Ci chiama anche Paolo da Padova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Con questi discorsi mi sembra di capire che vivo nel la certezza di vivere nel paese più bello del mondo, però amministrato, mi sembra, da un'associazione mafiosa legalizzata, dove ti impongono il pizzo che bisogna pagare tutti i costi. E da qua non si scappa. Cioè il pizzo è il canone? Il pizzo è il canone, vabbè. Come tutte le tasse che impongono, è il pizzo. Diversamente non c'è, perché qualsiasi roba bisogna pagare sempre tutto. E dove? Dove fanno... i soldi vanno agli amici degli amici, perché se andiamo a vedere le consulenze che viene fatta alla RAI vanno alla moglie e l'amante di Fini e tutte queste cose qua. Vabbè, adesso. Beh, la democrazia non esiste in Italia. Vabbè, il pizzo, va bene. Paolo, facciamo così: dobbiamo andare a dare un attimo la pubblicità, altrimenti comunque c'è Guido da Milano, ci sono tanti ascoltatori. E voglio vedere chi ha la pubblicità al fegato di andare a sentire i canali di Radio Rai. Esatto. State con noi, 800 24 00 24. Abbiamo anche Maroni, tra poco, presidente della Regione Lombardia. E abbiamo comprato una quota di Higuain, poi ve lo spiego. Una quota di Higuain? Sì, sì, sì. Ah, io e te? Sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Allora, cari ascoltatori, siamo qui alle 8:39 minuti. Caro Oscar, cos'è che abbiamo comprato? Una Noi quota abbiamo di comprato una copia di Higuain, perché dovete una piccola quotina, perché dovete sapere che altrimenti io ho il conduttore capo qui, il mio, sì, Alessandro Amato, che entra in crisi, perché dovete, sì, sapere che parte di questo affare è l'addio di Bacca a quel che resta del Milan e questa cosa per Alessandro non è tollerabile. Allora, vabbè, perché è l'unico buono che avevamo. Ho chiamato De Laurentiis, mi sono fatto, pardon, sì, mi ha detto, ho usato il nome di Cruciani, ho fatto l'impossibile e abbiamo una piccola quota dei 100 rotti milioni da schierare nel derby, esatto, e tenteremo di girarla al cavaliere per dire non cedere Bacca, perché sennò Alessandro Milan mi entra in crisi, non vabbè, posso. Ma Bacca è già, tu lo sai che sei già ceduto, è vero? Già il passato, sì, Bacca è già il passato, era troppo buono Bacca, era troppo buono. Va bene, noi qui stiamo parlando di Rai, di questi stipendi che insomma hanno fatto arrabbiare, ma adesso abbiamo con noi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni della Lega, a cui diamo il benvenuto. Ben ritrovato Maroni, buongiorno. Buongiorno, mi associo anch'io all'appello al cavaliere. Ecco, infatti lo sapevo che potevamo contare su di lei. Esatto. No, qua adesso noi l'abbiamo chiamata anche per parlare un po' di politica e altre cose, ma gli stipendi della RAI lei li ha visti? Non, le suscitano qualche considerazione oppure no? Dice... Sì, direi di sì, perché noi politici, amministratori, siamo sempre accusati di essere quelli che prendono un sacco di soldi pieni di privilegi e poi scopriamo che c'è gente che non lavora e si prende 200-300 mila euro di stipendio l'anno. Beh, mi sembra un po' scandalosa la cosa, visto che la RAI poi li paga anche con i soldi del canone, cioè con i soldi di tutti. Soldi del canone. Tra l'altro ci sono molti leghisti che fanno l'obiezione, adesso non si può più con il canone in bolletta. Infatti ci hanno fregato anche da questo punto di vista. Mi hanno fregato. Allora, il centrodestra, caro Maroni, guarda Parisi. Lei ieri ha fatto un'intervista sul Corriere un po'... Sei ottimista però, centrodestra. Per il momento no, Berlusconi. Esatto, ecco. In cui ha posto dei paletti, dei dubbi. Parisi è l'uomo per federare il nuovo centrodestra, Maroni? Mi pare che il dibattito adesso sia Parisi è l'uomo per rilanciare Forza Italia, questo è il dibattito interno. Nel merito di questo dibattito io non entro perché Forza Italia è alleato mio, è alleato della Lega, ma noi siamo un'altra cosa, no? Quindi stiamo a vedere che cosa succede. Qualunque contributo è benvenuto, soprattutto in questa fase, che definisco un po' una fase creativa per noi, perché dobbiamo creare, dobbiamo inventare un centrodestra competitivo per poter battere le prossime elezioni sia il PD Renzi sia soprattutto, cosa più difficile per me, il Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle secondo lei è il partito in questo momento più competitivo, ecco, anche più del PD di Renzi, ma come? Cioè non vede Renzi al governo come il governo forte che può portare il PD sempre alla vittoria. Stavo parlando di Renzi e mi è venuta una cosa in gola, avete sentito? Ho sentito. No, il 5 Stelle è una cosa insidiosa, perché al di là dei programmi, al di là delle persone, al di là di quello che riusciranno a fare a Roma e a Torino, come si è visto nei ballottaggi non c'è partita, perché rappresentano qualcosa di nuovo, anzi di ultra nuovo. E questo tema del nuovismo, su cui ci sarebbe molto da dire naturalmente, è il tema che ha posto Renzi e che sta pagando, sta vincendo. Se con questa legge elettorale si andrà al voto, col doppio turno, il ballottaggio, io penso che c'è un rischio altissimo che alla fine al ballottaggio ci va il 5 Stelle e allora non c'è partita. e noi saremo fuori, e soprattutto se ci dividiamo, parlo del centrodestra, no? Tutti i distinguo vanno bene, per l'amor di Dio, i programmi, i progetti, però l'unione fa la forza, oggi più che in passato, e quindi ben vengano tutti quelli che rappresentano qualche cosa di nuovo, a certe condizioni naturalmente, perché la coerenza viene prima di tutto, ma dobbiamo lavorare per essere pronti, e non guardo al 2018, io penso che si voterà le politiche il prossimo anno, nel 2017. Senta, io penso che cambierà la legge elettorale, perché Napolitano l'ha mollato di brutto, si vede nei gruppi parlamentari del PD che c'è il fuggi-fuggi, che significa, come sempre, che le riforme elettorali in questo paese non si fanno per il fine generale, ma solo se si crede avere in tasca la vittoria, e a quel punto si fa la legge elettorale, e io non sono molto d'accordo, ma è così. Ma la domanda che le faccio è questa: secondo lei è meglio cambiare una legge elettorale che dà il nome del vincitore la sera stessa, se non si è tra i due che possono concorrere, e però a quel punto scegliere un sistema in cui vi dovrete mettere d'accordo anche se avete fatto campagna elettorale contrapposta, perché a questo si sta, secondo molti, andando, oppure non è meglio tenere lo schema a due? Il centrodestra magari si rimette in piedi se non partecipa tra i primi due al ballottaggio la prima volta, però la seconda capisce cosa bisogna cambiare e si fa. Lei cosa preferisce? Ma è difficile dirlo, guardi, non esiste una legge elettorale, lei lo sa bene, è perfetta, che va bene a prescindere. Le leggi elettorali danno dei risultati che possono favorire o sfavorire i singoli partiti, quindi su questo c'è un conflitto di interessi nella natura stessa della legge elettorale, diciamo così, no? Da parte dei partiti. Dipende poi anche dalle condizioni, dipende dal contesto, non lo so. Io terrei questa legge elettorale eliminando il ballottaggio, il turno di ballottaggio, punto. Nel 2008, quando c'era una legge elettorale diversa, il centrodestra vinse sia alla Camera che al Senato, e quindi non è determinante, dipende dai voti che prendi, ovviamente, quindi... E quindi io terrei questa legge elettorale, anche il listone invece della coalizione, perché ci costringe, so che su questo non tutti sono d'accordo nel centrodestra, perché ci costringerebbe a fare quell'alleanza forte senza la quale è difficile pensare di vincere. Secondo lei, se vince il no referendum, lei fa parte dei comitati, insomma, fondatore, era ad Arezzo anche per i comitati al no referendum, a quel punto Renzi dovrebbe dimettersi? Perché questo è un punto sul quale anche la divisione con Parisi mi sembra ci sia, per guardare al centrodestra. Sì, io penso di sì, io penso che dovrebbe dimettersi, non solo, ma si dovrebbe andare a elezioni anticipate, per questo dico nel 2017. Sì. Perché confida nella vittoria del no, evidentemente. Ma anche se vince il sì, si va nel 2017, perché Renzi sfrutterà questa vittoria per far fuori gli avversari interni e andare al voto vedendoci impreparati, noi del fronte del no, soprattutto dopo una sconfitta. Io mi auguro naturalmente che vinca il no, ma se vince il no sono assolutamente contrario a un Nazareno bis. Fare un nuovo governo vuol dire fare il nuovo patto del Nazareno. C'è qualcuno che ci pensa, sì, ma per ragioni diverse dalla politica. Ma a chi sta pensando? Lo so, ho sentito appunto Parisi, qualcun altro dentro Forza Italia che dice facciamo un governo di larga intesa, di larga coalizione. Io sono per le cose semplici, perché sono le cose più efficaci e le cose più chiare. Renzi perde il referendum su cui ha puntato tutto, si perde, si va a casa, e a quel punto lì finalmente si torni ad un governo eletto. Che Renzi non è stato eletto, Letta non è stato eletto, Monti non è stato eletto, e non c'è due senza tre, ok, ma il quarto deve essere un governo eletto. Senta, all'Expo perché Le Maroni non vuole i migranti? C'è questa idea di mettere anche un centro nell'area, ovviamente, dell'ex Expo per i migranti? Ma è semplice, perché mettere lì gli immigrati vuol dire tenerli lì 2 o 3 anni, non 2 o 3 mesi. E quello sarà il centro che diventerà l'eccellenza della ricerca biomedica, il centro del futuro, il centro che deve attrarre investitori internazionali, che deve essere un centro che fa di Milano una delle capitali del mondo. Mi sembra che c'entri poco questo. Come si fa a mettere lì un... È temporaneamente, immagino. Sì, per 3 o 4 anni. basta vedere quelli che sono arrivati negli anni scorsi e che sono ancora qui. Come si fa a metterli qualche centinaio o qualche migliaio di immigrati, spesso clandestini, che poi succede qualche cosa, come purtroppo sta succedendo in giro per il mondo, rovina tutto. Non capisco francamente perché farci del male su un'area che è considerata un'area di eccellenza, che ha visto un grande successo di Milano, della Lombardia e dell'Italia. Sono assolutamente contrario. Senta, quando sei venuto due settimane fa, il Presidente del Consiglio qua a Milano con Sala hanno lanciato un'idea di patto per Milano a settembre prossimo, eccetera, eccetera, e hanno anche, per così dire, delineato il futuro appunto della governance dell'area post-Expo. E della fondazione che dovrà nascere ci sono i rappresentanti delle istituzioni culturali, delle università, dei diritti di Genova, eccetera, eccetera. Voi della regione non ci siete. Lei reagì l'indomani dicendo: beh, insomma, è l'ultima volta che tollero, altrimenti butto per aria al tavolo, se non sbaglio. Come stanno le cose? Ci sarà un progetto condiviso tra comune e regione per il dopo Expo dal punto di vista scientifico, dell'hub dell'innovazione, oppure no, secondo lei? Sì, tra comune e regione sì, ma noi siamo come regione soci della società Arexpo, che è proprietaria dei terreni. Il governo non c'è. Ora, mi pare davvero singolare che arriva uno che non è proprietario dei terreni e dice a chi è proprietario dei terreni che cosa deve fare. Adesso ci penso io. Si chiamava esproprio proletario una volta. Noi come regione siamo lì, ci siamo, saremo, non solo voglio essere, ma saremo protagonisti. Il governo deve stare attento a fare queste cose senza coinvolgerci, perché senza di noi non può fare nulla. È veramente incredibile. Io faccio fatica a capire perché il governo si comporta in questo modo, o meglio, si comporta in questo modo perché vuole tenerci fuori. Ma non può farlo, non è giusto e soprattutto è contrario alle regole. Io con Sala su questo ho un buon rapporto, e con il governo un po' meno, perché vengono su a Milano, fanno i fenomeni, salvo poi ricredersi, come è successo per il progetto iniziale di Human Technopole, sul quale avevo espresso la mia contrarietà e poi è stato modificato come io avevo detto. Quindi io sono assolutamente tranquillo, alla fine sarà come dico io, perché è così. Senta, però oggi invece, se non hai già visto i giornali, su Libero c'è Salvini che un po' la bacchetta per la scelta, per esempio, di Di Pietro, no? Che è stato messo a capo della Pedemontana. Perché ha riscoperto Di Pietro? Dice Salvini: sono scelte di Maroni, avrà fatto le sue valutazioni. Come mai Di Pietro? Beh, non è che mi bacchetta, riconosce che esercito la responsabilità di decidere. Uno che governa deve fare questo. Di Pietro perché da ministro delle infrastrutture è quello che aveva lanciato il progetto di Pedemontana. Se si farà la Pedemontana, è anche e soprattutto merito suo, quindi è uno che ci capisce di queste cose, è uno che sa di che cosa si parla, è stato un avversario politico, va bene. Io guardo le capacità delle persone, il merito delle persone, non le appartenenze. Sono stato qualche volta criticato in questi tre anni perché ho scelto persone non per l'appartenenza politica, a dirigere gli ospedali per esempio. Ho fatto, cosa unica in Italia, ho fatto fare una selezione a tre esterni, a tre esperti, a tre professori dei nuovi direttori della sanità della Regione Lombardia. Io guardo le capacità e il merito, non le appartenenze. Credo che Di Pietro sia la persona giusta. Ci vuole tanta energia adesso per completare la Pedemontana, perché ci sono mille problemi e lui ce l'ha questa energia. Ce l'ha, e quindi Di Pietro. Certo, Di Pietro. Vabbè, a proposito di ospedale e sanità, anche qui c'è un caso che insiste sull'argomento vaccini, e quindi glielo chiedo come responsabile della sanità in Lombardia. Il caso è quello di una mamma che ha perso Antonella Salimbene, che vive in provincia di Lodi, 38 anni, che sta facendo campagna pubblica. Oggi, per esempio, Repubblica, nelle pagine lombarde e milanesi, c'è una pagina intera, perché dice: io ho perso mia figlia e ora combatto per lei, l'ha persa per meningite. Combatto per lei i medici antivaccini. E anche a Milano e in Lombardia ci sono delle notizie di calo dei numeri di bambini che per esempio hanno fatto il trivalente. In quattro anni a Milano c'è stato un calo, dice la TS, che è l'ex ASL cittadina, molto molto significativo, e quindi siamo a una copertura ormai inferiore al 90%, che viene considerata una copertura purtroppo che consente il tornare a diffondersi queste malattie che sui bambini piccoli possono avere esiti molto pesanti. Lei, Presidente Maroni, che pensa di tutta questa faccenda sui vaccini? Lei è per la libertà di scelta oppure pensa che sia un dovere del servizio pubblico rispetto alle ultime norme radiare i medici che fanno campagna contro? Qual è la sua interpretazione? Io non sono per l'obbligatorietà, l'ho già detto questo, sono per la diffusione certamente, perché vaccinarsi è assolutamente utile, sono per campagne di informazione molto precise e molto efficaci che convincano i genitori a far vaccinare i propri figli, assolutamente. Ci sono diverse due scuole di pensiero, opinioni diverse su questo. Io non entro nel merito delle valutazioni che i medici fanno, perché i medici rispondono al giuramento di Ippocrate, come è giusto che sia. Io personalmente sono per la diffusione naturalmente della vaccinazione, lo stiamo facendo come servizio sanitario regionale. Sull'obbligatorietà ho già detto, e sulla radiazione dei medici non entro nel merito perché non compete a me, lascio alle autorità competenti di valutare. Mi pare un po' strano, ecco, che si possa intervenire così drasticamente su una questione che coinvolge proprio la vocazione del medico, che è quella di rispondere ai propri principi. Però secondo lei, se a Milano siamo all'89% invece che al 95% che il Ministero dà come linea guida di copertura per la trivalente, lì lei dice siano i responsabili tecnici della sanità a occuparsene, lei come politico dice io mi inchino a quello che decidono loro, ho capito bene, oppure è il politico che deve dire no, però noi non possiamo essere non coperti con questa percentuale a Milano? Distinguiamo tra politici e amministratori. Io come politico esponente della Lega posso avere le mie opinioni, ma come amministratore, come governatore, sono convinto che diffondere la vaccinazione sia giusto, quindi okay, faremo tutto quello che serve incentivando, comunicando, informando sull'utilità ovviamente di vaccinarsi. Dopodiché se una famiglia per motivi religiosi, per motivi personali, per motivi non so di quale natura decide di non farlo, io non credo che debbano essere puniti solo per questo fatto, tutto qua. Va bene, noi intanto la ringraziamo, ci dobbiamo fermare perché c'è il giornale quota radio. Bacca anche Maroni, grazie, anche quota Maroni. Bacca. Grazie a voi e forza Milan. Sempre, sempre, grazie, c'è il giornale radio, ma non andate via, state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mancano meno di due settimane a venerdì 5 agosto, che è il giorno in cui al più tardi la Camera e il Senato cominceranno le loro vacanze. Da qui alla pausa estiva i deputati e i senatori lavoreranno al massimo 7-8 giorni, giusto il tempo per svuotare i cassetti prima della sosta e approvare 7-8 leggi che sono in calendario. A dire il vero, come si legge oggi sul Sole 24 Ore, a suscitare interesse non sono solo i provvedimenti che dovranno arrivare, ma forse ancor più quelli che subiranno un nuovo rinvio a settembre o magari in autunno, nei mesi in cui si dovrà svolgere peraltro il referendum sulla riforma costituzionale. La lista dei rinvii è effettivamente quanto mai nutrita. È singolare peraltro che nell'elenco ci siano riforme presentate spesso con grande enfasi anche dal precedente governo e che attendono il via libera da centinaia e centinaia di giorni. Qualche esempio: la legge sull'assicurazione per i medici attende da 1000 giorni, la riforma degli ordini sanitari da 880, il disegno di legge sulla concorrenza viaggia nelle secche del Parlamento da quasi 500 giorni, e poi le riforme della giustizia, il processo penale è arrivato in Parlamento 550 giorni fa, più o meno lo stesso periodo che riguarda il processo civile. Poi c'è il Jobs Act del lavoro autonomo, naviga solo da 150 giorni e forse taglierà il primo traguardo entro la prossima settimana. Per l'approvazione definitiva però, ahimè, bisognerà attendere ancora, ma le vacanze, si sa, sono sacre anche per i nostri parlamentari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. "24 Mattino, attenti a noi due." Eccoci, caro Oscar, siamo qui allora. Tornati alla nostra radio di informazione senza canone. Senza canone, è vero, potete ascoltarci gratuitamente, dovete solo fare lo sforzo di fare tic e accendere. Soprattutto noi non stiamo lì a pensare che abbiate o meno una torcia elettrica o un lampadario al quale appendervi, vi prenderemo il canone. Allora, alle 9 e 5 minuti. Allora, adesso dovremo parlare di altre tematiche. Prima ci sono gli ascoltatori che volevamo recuperare sul canone della RAI. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta, ma insomma adesso se li recuperiamo, Maurizio da Roma e Guido da Milano, magari in coda di trasmissione li recuperiamo sul tema del canone. Insomma, questi soldi della RAI fanno un po' ancora arrabbiare i nostri ascoltatori. Questo lo capisco bene. Tieni conto che, certo, tra le tante notizie che ci sono, vi segnalo solo due. Io sono rimasto esterrefatto, anche se non stupefatto, innanzitutto dalla vittoria clamorosa. Ci sono le Olimpiadi che arrivano, i giornali sono pieni delle notizie sul fatto che la delegazione italiana deve mettere mano al portafoglio perché gli edifici che devono ospitare il Rio, i nostri, non sono adeguati. Ma il punto non è questo. Notizione è che la Russia ha stravinto. Noi avevamo parlato proprio la settimana scorsa del rischio che l'intera delegazione di atletica fosse fuori dai giochi, così sembrava, la vada e così via. Invece, sorpresa, il Comitato Olimpico Internazionale ha lasciato libere le federazioni internazionali di decidere ciascuna e quindi praticamente la Russia parteciperà pienamente. Incredibilmente la Stepanova, una delle due che ha consentito con la sua collaborazione alla WADA le accuse contro gli atleti russi, lei sì, resterà a casa per 9 ore. Vedi quanto è potente il signor Putin? Politica, caro. Ne avevamo dei dubbi sulla potenza. Sport. No, ma tutto il mondo Vladimir piegato. E vabbè, comunque. Allora, vogliamo parlare di un tema che riguarda tutti noi genitori, ma riguarda soprattutto i nostri figli, no? Il bullismo. E che ha avuto un ruolo terrificante nel gesto che a Monaco ha portato questo irano tedesco, come lo definisce, 18enne Alison Boy, a pensare per oltre un anno ciò che poi ha posto in essere il bullismo. Sì. Eh sì, perché abbiamo letto questi titoli, no? Sono stato bullizzato, mi vendicherò. Vabbè, ma al di là di questo aspetto tragico, che è veramente tragico, però pare sia porta suicidi, porta, cioè è un motivo che devasta la vita di chi è soggetto a questo. Esatto. Lo vogliamo fare intanto con un professore, il professor Daniele Manni, che salutiamo. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Lei insegna informatica all'Istituto Galilei Costa di Lecce. Allora, tra l'altro... Bravo, vedo che è preparato, posso mettergli un buon voto. Va bene, grazie, non ho giustifiche da portare. La prima era facile. Allora, sì, ecco. oggi è una giornata importante perché voi, nel senso come istituto, portate avanti questa campagna, ma basta, c'è anche un sito, lo vuole dire lei? www.mabasta.org mabasta.org, movimento antibullismo. Perché è una giornata importante? Perché avete lanciato un crowdfunding, come si suol dire, per fare che cosa? È una piccola raccolta fondi, in pratica attraverso un protocollo che ha stilato l'azienda Fastweb con il MIUR, con il Ministero dell'Istruzione, dove vanno in cerca di progetti interessanti da poter aiutare, e il nostro pare sia risultato uno di questi. Quindi è partita questa piccola campagna di crowdfunding con un obiettivo terminale di 5.000 euro, dove però con le nostre forze dobbiamo cercare di arrivare alla metà 2005. Se arriviamo a questa entità, Fastweb raddoppia l'importo e quindi la parte rimanente la mette direttamente Fastweb. Ecco, ma questi soldi li raccogliete per fare che cosa? Ecco, allora noi questi denari, questi 5.000 euro complessivi, li utilizzeremo nella parte più importante, nel creare una piattaforma informatica. Io insegno appunto informatica ai miei ragazzi, insegno a fare queste cose, quindi mi piacerebbe potergli fare ancora una volta un esempio su una cosa concreta. Creeremo una piattaforma informatica che fungerà da centro di ascolto digitale, perché ci siamo resi conto che i ragazzi hanno più dimestichezza magari a raccontare di episodi sia che toccano loro come vittime, sia che sono a conoscenza come spettatori, a usare i nuovi mezzi, cioè a usare il proprio smartphone, usare in pratica il PC per poter comunicare, segnalare, denunciare eventuali casi. In più vogliamo realizzare in pratica dei tutorial, anche questo è un termine che va molto di moda, che sono dei video da mettere su YouTube, in maniera tale che in ogni scuola ci piacerebbe ci fossero dei bulliziotti, ossia delle persone, dei ragazzi, sempre ragazzi responsabili del bullismo in quella scuola, dove appunto loro possono essere preparati attraverso questi tutorial a sapersi come comportare. Senta, e per i nostri ascoltatori che volessero appunto decidere di darvi una mano coprendo una quota di finanziamento individuale di questo progetto di piattaforma informatica, mi sembra un'ottima idea, a dire la verità, che cosa in concreto devono e possono fare se vogliono? È molto molto semplice, ovviamente mi aggiungo all'appello e approfitto del vostro canale per allargare appunto questo invito. La campagna l'abbiamo chiamata Ma bastano 5 euro, perché a tutti gli effetti si possono fare delle donazioni a partire dai 5 euro. È sufficiente andare sul sito www.eppela.com/mabasta e lì seguire tutte le istruzioni. E tra l'altro, dicevo, oggi è una giornata perché credo che sia il giorno ultimo per cercare di raggiungere questa cifra. Quindi, cari ascoltatori, insomma, se qualcuno vuole almeno informarsi, insomma, che mi sembra una cosa, un progetto molto interessante. Ne abbiamo bisogno. www.eppela.com/mabasta. Esatto. Poi se qualcuno ci scrive una mail, noi vi indirizzeremo. Alessandro, la tua esperienza scolastica l'altro ieri, visto che hai 18 anni, ma ti è capitato di assistere o di avere in classe? No. Sì, bullismo. No. Episodi di bullismo ci sono sempre stati, dai. Fortunatamente ho visto in prima persona episodi di bullismo non troppo violenti, voglio dire, lo schiaffone, la presa in giro, cioè, però bisogna fare attenzione perché dalla presa in giro... Nel mio quartiere operaio, sto parlando decenni fa, primissimi anni 60, a Torino, io ne ho viste di brutti episodi. Lì all'epoca non c'erano gli immigrati, lì erano i meridionali l'effetto, perché noi avevamo in quinta elementare, noi avevamo 13enni e 14enni che venivano dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Puglia, erano tre in quinta elementare, c'erano le classi differenziali, era un mondo veramente diverso e c'era bullismo nei loro confronti, ma con loro reazioni violentissime. Infatti uno poverino, quando io poi ero in prima medio, ha dato rimano al coltello all'oratorio. Questo per dire che possono essere fenomeni che portano a dinamiche terribili, cari ascoltatori, non sottovalutateli, cercate con i vostri figli di parlarne. Assolutamente. E poi, caro Oscar, visto che noi abbiamo sempre l'approccio da genitori, no, anche quando ne parliamo, no, però c'è una radio che tra l'altro è una radio amica di Radio 24, che partecipa a varie trasmissioni, è sempre la chiamiamo sempre in qualsiasi occasione perché è una radio che è peculiare, si chiama Radio Immaginaria, magari i più affezionati di Radio 24 la conoscono, perché è l'unica radio in Europa fatta da adolescenti, cioè per in questa radio, caro Oscar, non parliamo io e te, ma parlano loro, che è la cosa migliore. Intanto noi ne abbiamo collegati un po', ovviamente. Intanto Giulia, credo, sia collegata con noi. Giulia Morini, sì, buongiorno. Sì, ciao Giulia. Ciao Alessandro. Voi siete tutti dove? Al Gifoni Film Festival, ovviamente. Sì, esattamente. Noi siamo qua, siamo per partire dopo 10 giorni di festival. È stato bellissimo far parte anche quest'anno del Festival di Gifoni. Capito, adesso... Oscar? Stanno lì dove ci sono, dove ci si diverte. È diventato sempre una vetrina sempre più internazionale. Gifoni è un grande esempio dal basso, diciamo, una volta ogni tanto, dal basso di cose straordinarie italiane. Ma perché, Giulia, la scelta in Radio Immaginare di far parlare i ragazzi e le ragazze e non gli adulti di queste problematiche? Beh, allora, vabbè, Radio Immaginaria è nata dall'idea di un adulto, di Michele Ferrari, però subito attorno si è creato un gruppetto di adolescenti. Comunque io, vabbè, tra gli altri c'ero io che avevo 14 anni, adesso ne ho 20, ci sono dentro da tantissimo tempo. E praticamente, secondo noi, è importante che gli adolescenti abbiano un nuovo mezzo di comunicazione, che noi vogliamo che sia appunto Radio Immaginaria, perché è diventato troppo importante poter parlare delle cose che ci riguardano di più, come ad esempio il bullismo, che molto spesso viene sopravvalutato o sottovalutato, perché quando si mettono in mezzo poi anche genitori, professori, magari le cose non sono proprio come le vedono loro, ma anche noi vogliamo dire la nostra su questi temi, soprattutto il tema della scuola, il tema del lavoro. Infatti noi organizziamo il 10-11 settembre a Castelguelfo di Bologna un festival che si chiama Team Parade, dove il lavoro verrà spiegato dagli adolescenti. Quindi noi veramente pensiamo che sia troppo importante dire la nostra opinione e vogliamo farlo attraverso la immaginaria. No, ma far parlare i ragazzi. Però su, di sì. questo tema del bullismo, perché dici a volte è anche sopravvalutato? Perché molte volte accadono sempre episodi di bullismo, soprattutto nelle scuole, ma anche nei luoghi più abitati dai ragazzini, come possono essere le palestre, i campetti da calcio. E molte volte, quando si mettono in mezzo anche i genitori, forse loro ogni tanto vedono qualcosa che in realtà non c'è. Cioè c'è una sorta di allarmismo che certe volte è assolutamente lecito, ma ogni tanto è meglio che i ragazzi possano dire la loro opinione. Molti bulli sono considerati dei bulli, ma in realtà non lo sono. Cioè, alla fine uno spintone, un calcio a scuola, cioè, sono cose da ragazzi. Quindi secondo noi ultimamente si è creato un po' di allarmismo su queste cose. Però capito. Naturalmente il bullismo è un fenomeno che noi, di cui noi parliamo tantissimo e che vogliamo combattere appunto parlandone. Capito, caro Oscar. Ti vedo perplesso. No, io sto ascoltando, perché io penso che sia un'esperienza straordinaria quella che hanno messo in piedi questi ragazzi, quindi scherzo, altro che perplesso. E capisco che dal loro punto di vista, magari per un adulto, un genitore, è complicato discernere quella sottile linea che separa fenomeni di aggregazione e interazione collettiva tra gruppi che si conoscono e così via, rispetto poi a forme che però poi... cara Giulia, a volte portano anche a suicidi, a disperazioni, eccetera. Io dico a volte, e capisco che la difficoltà per l'adulto di entrare in logiche di interazione che sono, insomma, tipiche di ogni generazione, questo lo capisco. Peraltro a me è capitato alla figlia di una mia amica, ed è stata un'esperienza terribile invece, che si è portata dietro fino a quando era oltre adulta, perché lei non ha avuto la forza e il coraggio di tirarla fuori e ha avuto il percorso di formazione praticamente devastato dalla sua timidezza, ecco. E questo sì. Ovviamente, cara Giulia, arrivano tanti messaggi, ci chiedono come si fa ad ascoltare, quali frequenze radio immaginare. È qui il trucco, è qui il fascino, no? Perché ormai la radio è un mondo talmente ampio che ci sono anche le cosiddette web radio. Vabbè, comunque dici come fanno ad ascoltare radio immaginaria. Allora, radio immaginaria si trova ovunque. Come hai detto tu, appunto, noi siamo una web radio, quindi utilizziamo soprattutto la piattaforma Spreaker.com, Spreaker, perché giustamente perché non sono tutti adolescenti e smart come voi. Spreaker con la K, Spreaker.com. Però siamo su tutti i social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, abbiamo il nostro sito che è www.radioimmaginaria.it. E quindi siamo ovunque, è facile trovarci. E tra l'altro hanno corrispondenti, credo che ci siano, ci puoi passare Annabelle, se non sbaglio, 14 anni, Oscar, vive in Inghilterra, è vero, a Bath. Annabelle c'è? Adesso ce la chiamano. Annabelle, pronto? Ciao Annabelle, 14 anni, vivi a Bath. Sì, in Inghilterra. Ma lì com'è il problema del bullismo? Esiste? Sì, esiste, ma ci sono pochi casi, quindi cioè, ogni anno scolastico abbiamo una conferenza in cui noi possiamo chiedere domande a qualcuno che viene, che sa del bullismo e che ci può rispondere le domande in un modo che va bene per noi, che noi capiamo. C'è un modo per parlare, per confrontarsi. Sì, sì, sì. Effettivamente nelle scuole italiane, Oscar, secondo me c'è meno questo tipo di... Meno, credo anch'io. Almeno per la mia condizione. Ci saranno, ci sono persone che vanno in giro. Per la mia condizione in realtà questo problema si solleva laddove ci sono genitori o docenti che avvertono per propria sensibilità l'esistenza di mettere in piedi iniziative di questo tipo. Altrimenti si fa finta di no. Questo è il punto vero. Anche perché è complicato, qual è l'aspetto complicato? Io parlo per esperienza di questa amica che ha avuto appunto l'esperienza familiare molto segnata da questo. Perché siccome il bullismo significa inevitabilmente far emergere atteggiamenti di compagni di scuola, di classe, nei confronti di un compagno o una compagna, si crea un delicatissimo problema interfamiliare. Ecco, questa è nella esperienza di chi ha dovuto confrontarsi col fenomeno. Una delle cose più complicate, se non c'è, come ci sta dicendo Annabel, lì è un problema che viene apertamente trattato. Affrontato, e questo aiuta a far emergere gli aspetti, a distinguere azioni che non sono bullismo a quelle che invece diventano talmente ossessive nei comportamenti da poter influenzare pesantissimamente il carattere, l'evoluzione, la socialità e l'apprendimento dei ragazzi. Ma interessante, però Annabel, cosa succede in questi incontri? Cioè, vi danno delle, come dire, linee guida su come comportarvi se durante l'anno succede qualcosa di strano? Vi dicono, ecco, se succede qualcosa potete far riferimento a queste persone? Sì, esatto. E cioè, di solito viene la polizia, perché quando succede il bullismo, la scuola contatta la polizia per farlo sembrare più serio, così, perché di solito succede sull'internet, il cyberbullismo, quindi certo, è più facile per rintracciare il bullo e sì, richiede l'aiuto della polizia. Allora loro sono capaci di parlare con noi e dire come possiamo aiutare se vediamo questi problemi. Beh, interessante. E non è che l'arrivo della polizia non crea problemi. Pensa alla serenità con cui Annabel ci sta parlando di una società in cui la polizia svolge anche questa funzione. Se lo paragoniamo al caso di cui ci occupavamo mesi fa, del famoso liceo di Roma, in cui di fronte al fatto che c'era la droga al liceo e la dirigente scolastica chiamò la polizia, i familiari insorsero. Ma non succede. La vita viva Annabel e la serietà e serenità con cui ci sta parlando. Ma non succede dovunque così. Nella scuola elementare mia figlia è arrivata la polizia col cane antidroga, far vedere, a spiegare che tipo di lavoro fanno, quindi insomma credo che sia meglio, no? Certo, assolutamente meglio. Viva Annabel, viva Bart. Tra l'altro insieme a Annabel abbiamo anche Fabio, sempre di Radio Immaginaria, che invece è corrispondente da Bruxelles, caro Oscar. Fabio, ciao. Tu quanti anni hai? Io ho 15 anni e vengo da una scuola un po' particolare, che è la scuola europea in Belgio, e dunque una scuola nel quale ci sono varie sezioni. E io sono nella sezione italiana, ma ci sono anche danesi, ungheresi, tedeschi, polacchi, francesi, inglesi. Ah, che bello. Insomma, ma tra di voi si è creata la stessa atmosfera di frazionamento, esplosione dell'Europa che c'è nei nazionalismi nazionali? Divisi? No, la cosa molto bella è che insomma, nonostante le lingue e le culture che ci dividono, abbiamo molti corsi assieme come storia e geografia. E ci sono principalmente due lingue, cioè dunque inglese e francese, che ci uniscono e ci permettono di comunicare. E trovo molto interessante il fatto che si possono confrontare diversi atteggiamenti, diverse culture in una stessa scuola. A me piace molto questa scuola. Ma c'è, tra l'altro, Fabio, noi l'avevamo sentito, Oscar, quando c'è stato anche il recente attentato a Bruxelles, è stato contattato da noi, insomma, da corrispondente di Radio Immaginario, è diventato anche in qualche modo promosso sul campo, di Radio 24. Certo. Però hai sentito, Fabio, non so se hai letto anche la vicenda di Monaco, è terribile, perché si racconta di questo killer che sarebbe stato motivato anche da, come dire, anni di bullismo, vessazione a scuola, insomma problematiche che lì evidentemente sono esplose nel massimo della loro violenza attraverso la lettura poi questo libro sul quando gli studenti uccidono, attraverso cui si è avvicinato all'esperienza di Breivik, Utøya, cioè tutta una serie consecutiva di rimbalzi di una personalità debole che ha finito per dire mi vendico con la strage. Questo è un caso estremo ovviamente, Fabio, ma come ne parlate voi di quello che sta succedendo in Europa, questi recenti attentati, voi tre compagni? È sicuramente un tema che ci sta particolarmente a cuore, in quanto ogni volta che c'è un attentato ci sono dei ragazzi che magari hanno dei familiari nel loro paese che sono stati colpiti o che conoscono dei casi, insomma ogni volta che c'è un attentato ci si sente un po' tutti. Cioè, si cerca di consolare quelli di quella sezione, ci si sente ancora più uniti, non ci sono veramente separazioni. La scuola come reagisce? La scuola cerca il più possibile di non ignorare questi eventi. Abbiamo già fatto minuti di silenzio per gli attentati, di magari spiegazioni con i professori, Si cerca insomma di parlarne così, se non altro il confronto. Insieme a Fabio credo che ci sia Sara sempre di Radio Immaginaria, 18enne di Roma, è così se la raggiungiamo? Sì, sì. Eccoci, ciao sì, Sara. Ciao a tutti. La domanda che io volevo sapere, mi sono sempre chiesto, cioè, ho anche una figlia e quindi sono interessato, ho anche un figlio, è capire se gli episodi di violenza, di vessazione, di bullismo riguardano più le ragazze, le ragazzine, o se invece sono trasversali, riguardano tutti, insomma bisogna tenere le antenne drizzate in tutti sì, i casi. Penso che, cioè, il fatto non è in quale quantità accade ai bambini o alle ragazzine. Cioè, il fatto è che sono due bullismi diversi. Per le ragazze è più un bullismo subdolo, più un atteggiamento di esclusione. Si tende a prendere in giro magari alle spalle una ragazza che si pensa che possa avere dei problemi e così. Invece i ragazzi magari passano più all'atteggiamento proprio fisico, alle aggressioni. Perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, io ho sempre vissuto dei comportamenti di questo genere. Quindi insomma bisogna stare attenti in tutti i casi, però il tipo di approccio è diverso. Nell'esperienza, cioè, nell'esperienza degli ambienti che hai frequentato, di amicizia, di scuola eccetera eccetera, quando c'erano questi fenomeni, magari più o meno significativi, più o meno gravi, però a volte bisogna intervenire quando ci sono i segni iniziali, ecco, perché questa è la difficoltà a capire. Ma tra di voi, ragazzi e ragazze, c'era un atteggiamento, chiamiamolo con un termine un po' pesante, omertoso? E quindi poi chi ne parlava ai genitori o a scuola diventava a propria volta uno con cui non avere a che fare? Oppure invece qual è il meccanismo che scatta, che a un certo punto fa dire a uno di voi: no, questo tema bisogna che lo facciamo diventare, portiamo alla conoscenza di qualcuno per spezzarla questa catena? Beh, io sono tantissimi anni che vado a scuola e non mi è mai capitato di sentire qualcuno che denunciasse dei fenomeni di bullismo. Perché alla fine, cioè, è come se fosse un circolo vizioso. Se un ragazzo inizia a prenderne in giro un altro, tutti quanti, anche per sentirsi un po' più del popolari, gruppo, più del fissi, gruppo, sì, iniziano anche loro a seguirlo. Quindi chi magari vuole denunciare la cosa non ha il coraggio, perché ha paura che anche lui possa diventare una vittima. E anche i professori spesso sottovalutano gli atteggiamenti di bullismo. E ad esempio nella mia classe mi è capitato che, anzi, era la professoressa che iniziava a prendere un giro un ragazzo solamente perché era cicciottello, magari con delle battutine, e così si è creato un circolo davvero vizioso che tutti quanti poi a seguire hanno iniziato a prendere in giro questo ragazzo. Ma è chiaro, da dove arriva l'esempio, in questo caso il male esempio, dall'autorità in quel momento, cioè il professore o la professoressa, è ovvio che tutti seguono. Quindi vedi, Sara seguono... ci dice, è un problema quello di doverlo affrontare, perché di solito si sta zitti. Non se ne parla, ecco. Sì. La questione dell'omertà. La questione, esatto, dell'omertà. Infatti noi di Radio Immaginaria abbiamo anche avviato un progetto con Radio 24 che si chiama Cacciabulli, sì, con il programma Si può fare, e durante praticamente Radio 24 ci concede un piccolo spazio in cui possiamo raccontare le nostre storie di bullismo, anche perché no, conoscendole si possono davvero, cioè, è conoscendo il bullismo che si può fermare. No, ma è chiaro, insomma, ed è bene che ne parliate voi. So che c'è anche Vito, per esempio, Vito 14 anni da Bologna. Io un 14enne, quando mi trovo di fronte a un 14enne non so neanche cosa chiedere. Vito c'è intanto? Perché non sì, ci sono, buongiorno. Non lo so. Vito, di quello che vuoi. Ma no, ma come Vito, di quello che vuoi? Perché siamo impazziti, cioè. No, Oscar, no, ma qui bisogna capire. Ma hai sentito, Vito, la tua coetanea Annabelle, 14enne, che da Inghilterra dice: arriva la polizia nelle scuole e ci spiega in maniera molto tranquilla, serena, sì, sì, quello che succede. Succede anche nelle scuole italiane, succede nella tua scuola. Da noi sono venuti a fare delle conferenze alla polizia postale, uh-huh, e appunto sono venuti a parlarci che se c'erano problemi di bullismo su internet, c'era proprio loro sono disponibili e pronti a intercettare il bullo. Quindi comunque dire, potete contare su di noi, vi hanno detto. Sì, e c'è sempre però anche il problema che molti appunto non denunciano il bullo. C'è sempre questa cosa. Esatto. E, in particolare nella mia scuola, quando andavo alle medie, pensato soprattutto nella mia classe proprio, io insieme a un gruppetto di nostri compagni eravamo vittima di in pratica tutta la classe che si prendeva in giro. Adesso, io di questo non me ne facevo molta importanza perché io sono sempre... è stato uno che è abbastanza indifferente. Però quindi, immagino che qualcun altro no. Esatto, infatti vedevo i miei amici che ci stavano particolarmente male, così come dire, lo disse alla mia prof di matematica, che era una una gran donna e cioè, molto aperta e simpatica, e lei, noi gli spiegammo in che situazione eravamo, e lei ci aiutò con organizzando questo una specie di riunione a cerchio dove ognuno esprimeva, tu in quel momento non potevi essere interrotto, solo tu potevi parlare, e man mano una testa esprimeva i loro contenti e il loro disagio. E così in qualche modo, insomma, così in qualche modo siamo riusciti a risolvere questo problema. È stato veramente bellissimo, perché, cioè, un momento veramente intenso, perché vedevi i bulli che dopo un po', quelli che ci avevano preso in giro, soprattutto ragazze, che si rendevano conto dello sbaglio che avevano fatto, perché secondo me a volte il bullo neanche se ne accorge. Sono molto d'accordo. No, è chiaro. Allora fai così, Vito, passa intanto il microfono a Lorenzo, che così concludiamo con lui. Oscar, qui c'è la questione di dire che i professori a volte si danno da fare. Beh, brava questa professoressa di matematica, che ha trovato però una soluzione estemporanea, sua, non codificata. Codificata, però sai, qui, mondo a parte, molti docenti direbbero sì, però noi già stentiamo a fare quello che dobbiamo anche occuparci dell'assistenza psicologica, sì, però attenzione, non possiamo risolvere noi da solo quello che le famiglie non vedono e non sentono. C'è questo problema delle famiglie, è inutile. Ah, come no. Lorenzo! Salve. Di dove sei? Quanti anni hai? Cosa fai? Sono di Castelguelfo di Bologna, quindi praticamente un paesino piccolo dove tra l'altro avverrà la Team Parade il 10-11 settembre, ve l'hai ricordato prima Giulia. Sono uno studente, cerco di esserlo almeno, e ho 16 anni. E la vedi questo problema come? Beh, sono fortunato perché nella scuola in cui vado il bullismo non c'è. Però ho avuto comunque le mie esperienze in questo ambito quando ero un po' più piccolo, quando andavo ancora a scuola nelle scuole medie di Castelguelfo, e ho avuto appunto ho subito atti di bullismo nel campetto sportivo, insomma, facevo calcio. E lì era un po' un gioco di chi è più forte. Esatto, chi è perché più non è sulla scuola, immagino in tutti gli ambiti. Però, insomma, nella tua scuola non c'è. Guarda, però noi adesso ci dobbiamo fermare, perché qua ci scrivono che bello, quanta gioventù, fate più spesso sentire la radio con i ragazzi. Però siamo vecchi, caro Oscar. No, è che siamo vecchi, noi crediamo nel fatto di doverci confrontare con loro. Quindi, questo è il nostro modo di essere vecchi a modo nostro. No? Poi ripeto: nella mia esperienza, questi fenomeni, laddove c'è più basso reddito e problemi di integrazione, questi fenomeni sono brutalmente presenti nella vita dei figli. E il compito terribile è tentare di capirlo, perché loro non te lo dicono. Questo, ripeto, dovunque c'è il fenomeno, ma nei quartieri, nelle parti d'Italia a più basso reddito e a problemi di integrazione, guardate, il bullismo domina. È inutile far finta di non vederla sta roba. Comunque, ringraziando Giulia, Anna Belsara, Fabio, Vito, Lorenzo, ricordo www.radioimmaginaria.it, lì ci sono tutti i modi per seguirli, perché insomma sono una comunità straordinaria. E molto viva, avete capito. Molto viva. Caro Oscar, noi ci fermiamo qui. Guardate, sta andando a chiedere Bacca, Milan, adesso, oggi lo tengo, cari ascoltatori, non preoccupatevi, lo tengo. Ma Bacca è passato, ormai è storia passata. Vabbè, è finita, ragazzi. Ma sì, Bacca. Continuate su Radio 24. È un ectoplasma al Milan in questo momento. Va bene. Ciao, ciao, ciao.